Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica e torneremo nel 2002. Ma intanto oggi, dopo le minacce, Donald Trump passa ai fatti e mette un freno all'importazione di prodotti stranieri negli Stati Uniti. Il Wall Street Journal infatti annuncia le prime misure protezionistiche del presidente americano contro l'Europa ed è un prodotto italiano tra i primi bersagli del protezionismo di Trump, la Vespa Piaggio, un simbolo del Made in Italy, un mito senza tempo che ha scritto il costume del nostro paese, una storia iniziata alla fine del secondo conflitto mondiale. È uno degli oggetti che ci sono più familiari, con le sue linee morbide ed essenziali, la sua perfetta funzionalità. Eppure è frutto di una rivoluzione tecnologica che ha letteralmente stravolto alcuni fondamenti della mobilità a due ruote a metà del secolo scorso. Doveva semplicemente rimettere in moto l'Italia del dopoguerra. È diventata molto di più. Vespa è lo scooter più diffuso nel mondo. Il progetto della Vespa nasce partendo dall'uomo e dall'idea di farlo sedere comodamente. Ho messo un parafango dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Il progetto convince in pieno Enrico Piaggio che quando vede la prima realizzazione, un po' per la forma, un po' per il rumore, esclama: sembra una Vespa, conferendole per sempre il nome. Nell'aprile del 46 la presenta sul mercato. L'Europa era stata invasa, possiamo dire, da questo prodotto immediatamente. Esistevano stabilimenti di produzione in Spagna, in Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Germania, poi fuori Europa, in Brasile, negli anni subito successivi in India, con un successo veramente senza confini, si può dire. Ma è soprattutto il cinema a decretarne il successo come prodotto di uno stile italiano riconosciuto e affermato ormai in tutto il mondo. Vacanze romane ne è un esempio tipico, dove Luciano Emmer girò tutta la parte italiana utilizzando la Vespa, è veramente come fosse un mega film pubblicitario di Vespa. Sul finire degli anni 50, l'economia è ormai in crescita. Sono anni di boom, di conquista di nuovi diritti, di espansione del mondo del lavoro. Il decennio successivo si aprirà con una flessione nelle vendite della Vespa. Da poco è arrivata sul mercato un'insospettabile concorrente, la prima utilitaria a quattro ruote. Le due sole sulla Vespa. Cambia il modo di presentare il prodotto, complice la televisione che incomincia a imporre il suo linguaggio. Si rinnovano i modelli, anche quelli più tradizionali e affermati come la GS. Ne escono di nuovi, più originali e grintosi come la 90 Super Sprint, oggi tra le più ricercate dai collezionisti. Di fatto la Vespa non solo non invecchia, ma la sua linea inconfondibile, disegnata in un giorno ormai lontano del dopoguerra, diventa negli anni un oggetto di culto che si presta alle più diverse interpretazioni estetiche. È questo uno dei segreti della Vespa. Negli anni è riuscita a rinnovarsi continuamente senza darlo troppo a vedere. Esteticamente ha conservato quelle linee essenziali ed eleganti, quello stile che l'hanno distinta fin dal suo esordio. Tecnicamente si è aggiornata sempre, pur mantenendo molti dei principi su cui è nata. Ma non sarà facile la guerra di Trump contro la Vespa, perché la gente reagisce e sui social la difesa della Vespa si è scatenata. La storia e la musica del 2002 arriveranno tra poco anche con Franco Schipani. Intanto, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, è stata la settimana dei David. L'hai seguiti? Li ho seguiti, li ho trovati, devo dire la verità, noiosissimi. Stavolta non ce l'ha fatta neanche lui, neanche Cattelan. Infatti faceva battute su battute e nessuno rideva. Ma sai che c'è qualcuno che ha fatto meglio di lui? E chi è? È stato Mattarella, perché la stessa mattina dei David lui ha accolto tutto il mondo del cinema al Quirinale e l'atmosfera era decisamente più frizzante. E hai detto tutto, però c'è stato un momento della serata che è stato alto, insomma, non trovi? Dici? Dico sì. Io credo che in quel momento fossi in bagno perché me lo sono perso. No, vabbè, Cravetto, se anche te lo fossi perso, io sono sicura che questo momento l'hai visto e rivisto, perché ci hanno massacrato ovunque, TG, social, tutto quanto. E parliamo della premiazione di Valeria Bruni Tedeschi. Cerco di fare in fretta. Ringrazio Franco Basaglia, che cambiò radicalmente l'approccio della malattia mentale in Italia. E ti diede la libertà. E le diede la libertà anche a lei. Però sei scorretta. Non senti quanto sono belli gli applausi? Comunque ascolta, continua ad ascoltare. Senti la cosa dice. Ringrazio Paolo Virzì, che mi guarda da anni con tenerezza, allegria e senza paura. È coraggioso. Ringrazio molto la mia amica Barbara, l'amica? Che mi propose ufficialmente la sua amicizia il primo giorno d'asilo. Primo giorno d'asilo non me lo ricordo. Però le ha dato la focaccia, per questo se lo ricordo. Quanto ti dava la focaccia? Pizza bianca. Facendomi sentire magicamente non più sola. La pizza bianca. Sono problemi all'asilo, in effetti. Le mie amiche senza i quali non potrei vivere. Ma piange. Non ce la fa. Non ce la fa. Piange. Grazie. La mia povera psicanalista. Povera psicanalista, ragione. Ma no, ma che povera, che hai ragione. Io non credo proprio. E lei comunque ha un lavoro interessantissimo da fare. Più che interessantissimo, lunghissimo. No, beh, sentiamo ancora perché non ha finito. Ringrazio gli uomini che mi hanno amata e che ho amato, e anche quelli che mi hanno abbandonata. Perché e quelli che ti ameranno. Sì, questo. La Ramazzotti. L'avrei iniziato. Ha tolto la battuta, però. Sì. Perché mi sento fatta di tutti loro. Mi sento fatta, ha detto? Di tutti loro. Ma fatta, ha detto. Ma ha detto anche tutti loro. Racconto. Si racconta a loro. Tu ti racconti a loro? No, ma soprattutto non gioisco e non ringrazio quelli che mi hanno lasciato. Ma no? Perché avrai un pessimo psicanalista. Lei è arrivata più avanti. Ma perché sto discorso ha avuto tutto questo successo? Me l'hai detto tu prima in realtà, scusa. Cioè? Sei stata tu a spiegarmelo. E sarebbe? Non essendoci nient'altro di qualcosa per parlare di questo David, dovevano parlare. E quindi vedi che ecco la soluzione. Però io continuo a non capire. Ci ritrovo col mondo del cinema. Non so perché non ho affinità. Non sei li capisco. Isometrica. Non sono in isometria con loro. Ma lo sai perché? Perché? Perché devi tornare dalla psicanalista. Ok. Si ricomincia quando si è perso tutto. Dopo la prima terribile scossa di terremoto del 24 agosto scorso, migliaia di sfollati laziali vengono accolti negli alberghi della costa marchigiana. Antonella Nina Onori, romana, arriva a San Benedetto del Tronto per occuparsi, insieme ad altri colleghi, dello sportello del cittadino aperto dalla Regione Lazio a San Benedetto del Tronto, appunto. Dalla sua esperienza è nato un libro, un diario, Lo sportello degli addii, i cui diritti andranno alla ricostruzione delle biblioteche nelle zone colpite dal sisma. Antonella Onori, di cosa si occupa concretamente lo sportello degli addii? Si occupa e si è occupato di tutto, perché quando sono arrivati i signori sfollati appunto dal cratere del Lazio, dai comuni di Amatrice e Accumoli, non avevano niente, per cui diciamo che la protezione civile si occupava dei vestiti, del cibo, e poi erano alloggiati negli alberghi, quindi tutto sommato il cibo non serviva. Diciamo, noi abbiamo assistito riusciti dal punto di vista amministrativo, cioè a ricostruire un'identità dai documenti. Quindi le richieste più frequenti erano un aiuto burocratico, riavere la carta d'identità, sì, riavere l'identità, il cambio del medico per poi avere le ricette. Sembrano banalità, ma in realtà erano cose molto importanti. Consideriamo che queste persone, tante, hanno perso anche il lavoro, quindi si trovavano senza un soldo. Perché, diciamo, noi abbiamo fatto una sorta di assistenza globale. Ma anche economica? Beh, attraverso i contributi, i finanziamenti, la domanda per il rimborso dei libri scolastici, della tassa universitaria, in questo senso sì, anche economica. Tu scrivi, il nostro sembra lo sportello dei desideri, però poi nel titolo del libro diventa lo sportello degli addii. Perché? Perché ognuno ha dovuto salutare qualcosa, chi la casa, chi la macchina, chi il lavoro, chi il figlio. Ma lo sportello adesso è sempre aperto? Ancora funziona fino a che non daranno le casette e questi signori non rientreranno nei territori, nei comuni propri. Antonella, tu scrivi, sono arrivata a San Benedetto del Tronto pensando di dover sostenere i terremotati. In realtà sono loro che stanno sostenendo me. Qual è la storia che ti ha colpito di più? Tante storie. Io ho imparato anche che c'è una diversità nel dare il valore alle cose. Un giorno è venuta una ragazza, per esempio, che voleva salvare la lavatrice da tutte le macerie. La lavatrice? La lavatrice, lei pensava che la poteva rivendere su eBay. Io all'inizio l'ho guardata un po' incredula. Sì. Poi ho capito che invece il valore alle cose gli si dà nei momenti particolari. È in base alle storie che hanno il valore gli oggetti. Diventano anche un simbolo. C'è stata una ragazza che ha perso tutta la famiglia, il padre, la madre, la sorella. E lei cercava da quel monte di macerie il quaderno degli appunti di scuola. Ecco, se uno lo vede freddamente pensa quasi un'assurdità, ma quei quaderni significano la continuità della vita, in qualche modo, un punto da dove riprendere. Un giorno una donna ti ha detto, Nina, tu che sei tanto brava, riportami viva mia figlia da sotto le macerie. Ecco, ma come hai risposto, come si risponde a una richiesta del genere? A una richiesta del genere non si risponde. Io ho cercato di... l'ho abbracciata forte, perché ecco, in questo lavoro poi spesso le risposte erano anche soltanto affettive. Io poi ho imparato tanto da loro, perché persone con una grande dignità, una grande capacità di sopportare, perché il terremoto è stato veramente un grande mostro che ha colpito a caso chiunque. Tu hai dedicato infatti un capitolo a quella che chiami la terremotata di lusso, ovvero? Sì, perché poi lì appunto i ceti sociali erano tutti meschiati, per cui c'era sì questa terremotata di lusso. In realtà ce n'è anche uno molto carino che riguarda, io l'ho chiamato la giustizia comunista, perché appunto nella boutique dove loro, quella boutique io così l'ho chiamata, dove loro prendevano i vestiti, ecco lì si vede una certa livella, perché se prima c'era la signora ricca e ben vestita, da oggi erano tutte uguali. Tu citi due passi di Sant'Agostino. Ciascuno è ciò che ama, è il primo, e poi da due pericoli bisogna guardarsi, dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Tu cosa hai imparato dal dolore degli altri? Intanto che vabbè, non bisogna mai attaccarsi alle cose, in questo già era un novanto, ora ne è proprio una certezza più concreta, e che rimangono solo i rapporti affettivi e quanto noi attraverso di essi miglioriamo. Antonella, di cosa hanno più bisogno oggi gli sfollati che sono ancora a San Benedetto del Tronto o sulla costa marchigiana, secondo te? Intanto di ritornare a una normalità, ovviamente. Anche le casette possono essere una normalità e hanno bisogno anche della nostra presenza, di non essere abbandonati. Grazie Antonella Nina Onori. Lo sportello degli addii, La Lepre Editore, lo ricordiamo, i diritti del libro andranno alla ricostruzione delle biblioteche nelle zone colpite dal sisma. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Ugo Parodi Giusino, 35 anni, palermitano, nel 2010 a Mondello ha fondato Musaikun, una piattaforma online che mette in contatto creativi di tutto il mondo con marchi di tutto il mondo per sviluppare insieme strategie video. Ecco Ugo, come nasce Musaikun? Musaikun nasce dalla mia esperienza diretta proprio da videomaker, un po' in parallelo con l'università. Vedendo un po' quelli che erano gli spot pubblicitari che non mi sembravano adatti all'online, Proprio da là nasce l'idea di sviluppare una piattaforma tecnologica che permettesse a creativi del video che vogliono fare campagne video di accedere da un punto di vista economico e proprio lavorativo a dei brand che hanno bisogno di campagne video. Ok, facendo un esempio pratico quindi, come funziona la piattaforma? C'è un grosso marchio, ad esempio di moda, mette un brief online? Allora, noi proprio una delle rivoluzioni importanti di Mosaicon è proprio cancellare un po' il processo del brief tradizionale, mm-hmm. per cui noi partiamo da dei video già realizzati da creativi un po' in tutto il mondo, che proprio i brand possono, diciamo, cercare in piattaforma in base a delle parole chiave e, potendo già visualizzare questi contenuti, poi scelgono direttamente dei contenuti in linea con i loro interessi, per cui molto più veloce e molto più qualitativo. Quindi la differenza tra voi e un'agenzia di pubblicità che voi fornite già a priori delle idee. Sì, diciamo che il processo del brief è un processo molto complesso e frustrante anche per chi fa creatività professionalmente, perché porta uno scambio che è molto dispensivo da tutti i punti di vista economico e di tempo. Con il nostro modello invece, appunto, il processo è completamente rivoluzionato. Al contrario, quasi. Ed è anche più gratificante per chi fa creatività, che può essere un po' più indipendente. Ecco, quindi voi avete a disposizione un bacino di creativi che arriva da tutto il mondo, che non hanno nessun tipo di criterio nel creare video, o sì? Diciamo, noi diamo delle indicazioni, per cui noi aiutiamo i creativi a sapere quali sono i temi, diciamo, caldi sui quali lavorare, le parole chiave che in quel momento sono quelle più ricercate dalle aziende. Senti, sul sito di Mosaicon c'è scritto che l'idea nasce dalla sharing economy, cioè dal concetto di un'economia condivisa. In che senso? Sì, oggi è un tema importante, quello, diciamo, di cambiare i modelli tradizionali di domande e offerta, e noi questa cosa chiaramente la stiamo facendo con i processi creativi, per cui noi ci sentiamo molto vicino a una logica dove diciamo i creativi possono monetizzare le loro idee, i loro progetti, che in quel momento magari non stanno monetizzando perché non c'è un brand che gli sta chiedendo. Mm-hmm. Da noi accedono a una platea molto più ampia. Tu sei stato uno dei primi in Italia ad intuire le potenzialità dei video virali. Ecco, perché secondo te un video diventa virale e un altro no? Diciamo, virale vuol dire qualche cosa che comunque adatta al canale. Per cui su internet uno spot tradizionale tipicamente non funziona, così come un video magari di più bassa qualità che però è molto più interessante dagli utenti. E di fatto sono i tipi di contenuti che gli utenti preferiscono, condividono, commentano e che di conseguenza chiamiamo virali. Uh-huh. Quelli che funzionano, in realtà non esiste una regola in assoluto, e questa è una delle funzioni proprio di Mosaicon, dare una vastità di contenuti, e bisogna un po' trovare poi quelli che possono funzionare meglio, e per me devo dire il parametro in assoluto non è il numero di visualizzazioni che ho, il numero di commenti, il numero di, diciamo, di interazioni sul contenuto, ma è più proprio avere un obiettivo che può essere magari raggiungere un determinato tipo di utenti interessati. Oggi la comunicazione quanto è sul web? A livello internazionale ormai il web, ci sono aziende, senza nominarne alcune, ma importantissime, che ormai hanno completamente deciso di investire soltanto online. Noi sicuramente in Italia siamo un po' indietro su alcuni cambiamenti, anche proprio nel rapporto fra investimenti tradizionali, anche in pubblicità e digitali. Sicuramente ormai siamo in un mondo connesso, e soprattutto io dico sempre, se guardiamo le nuove generazioni, oggi i bambini di 10 anni, ragazzi giovani, utilizzano esclusivamente l'online, il telefono, vogliono vedere dei video, non sanno che cosa sia il palinsesto, certo. Qui diventa proprio una esigenza basilare quotidiana. Sì. Mosaicon ha uffici in tutto il mondo, avete un'età media di dipendenti piuttosto bassa, ho letto che sui 30 anni, ma il quartier generale resta in Sicilia. Ma quanto è difficile rimanere in Italia a fare un lavoro come il tuo? Grazie a internet noi possiamo accedere a tutte le informazioni del mondo e possiamo raggiungere tutti i clienti e tutti i mercati. E a quel punto, con questo presupposto, fare un'azienda dove siamo noi adesso, Isola delle Femmine, vicino Palermo, la spiaggia, una delle spiagge più belle della Sicilia, sul mare, con dei costi della vita estremamente bassi e con una serie di aspetti della qualità della vita importantissimi, a quel punto ha molto senso dal nostro punto di vista. È chiaro che non è facile come farlo da altre parti. Oggi, diciamo, gli hub del digitale sono Silicon Valley, Tel Aviv. Dobbiamo recuperare tanto terreno, però devo dire che più passa il tempo, più in qualche modo ci piace vedere questo progetto che cresce dalla Sicilia e rimanendo molto ancorato alla terra d'origine. Senti, un'ultima domanda. Tu hai detto la chiave di sopravvivenza in questo mercato è la curiosità. Ma allora noi ormai siamo in un mercato, nel bene o nel male, un mercato iperdinamico, velocissimo, che cambia ogni giorno. Poi nel mio settore i cambiamenti sono su base oraria. Certo. Per cui l'unico elemento vero di sopravvivenza per me, ancor prima di fare le cose, è proprio essere curiosi, vedere quello che succede, studiare, rinnovarsi ogni giorno, non pensare mai di avere tutto chiaro e di avere tutte le informazioni. Partendo dalla curiosità e studiando ogni giorno quello che succede, allora sì, si può applicare la conoscenza, il tanto lavoro che è fondamentale, per poi proporre al mercato delle soluzioni che però possono funzionare. Se non c'è la curiosità, tutto diventa statico, e questo è un mondo che adesso non ci permette di essere statici. Beh, Cravetto, geniale, curioso sicuramente, un po' geniale, bravo, anche bravo, bravissimo. bravo, sì. Senti, però ci sono geni e ci sono invece fatti di cronaca un po' diversi. Che cosa vuoi dire a proposito di geni? Di stavi geni, per dire di geni, di diversi geni del DNA, volevo dire. No, diciamo la più politically correct. A proposito di curiosità. Esatto. Allora, c'è stato un titolo molto curioso, sì, anche un po' geniale, che riguarda le mamme. Non sembra più mia mamma, tra perizoma e tanga, fai selfie mentre balla, Occidentalis mamma. Senti, Occidentalis mamma, dimmi, qual è il titolo di cui stai parlando? Che titolo è? Allora, mamma vegana, sì, di una bimba vegetariana, uh-huh, aggredita fuori da scuola da un gruppo di mamme ultras carnivore. Beh, a parte che è stupendo, ma io ho già un grande problema. Dimmi. Il problema vegana vegetariana? Allora, io mi sono dovuta informare e ho capito che i vegetariani non mangiano carne. E fin qui. Okay. Ci siamo. I vegani invece rifiutano tutti i cibi di origine animale. Ah, e quindi? Cioè? Quindi niente uova, niente formaggi, niente miele, niente aria. Scusa, niente... quindi che cosa si mangiano? L'una con l'altra. Sì, si mangiano l'una con l'altra. Ah, e quindi? Quindi a botte di denunce, di accapigliamenti, di fotografie su Facebook, ci sono state delle brutte scene. Tutto questo succedeva in Maremma, che è una nota patria di vegani. Notissima, come si sa, i maremmani non mangiano carne. Perfetto, però questo tuo racconto mi fa venire in mente una nuova serie bellissima, dove le protagoniste sono proprio le mamme. Mamme bellissime, ricche, che vivono in case pazzesche sulla costa californiana, a Monterey. La Maremma americana. Volendo, molto volendo. Comunque, queste mamme sono tanto, tanto arrabbiate. Ho pensato che le tate dovessero conoscersi, sembrava una Jane buona non idea. È una tata. Come una Prius sporca parcheggiata fuori da un locale. È una mamma, ma è giovane. Come te un tempo. Come noi un tempo. Stronza. Ma cattivissime. Comunque potrebbe essere una scena davanti a scuola di mia figlia. Perché tu sei molto chic. Comunque ti chiamo. Molto cattivo. Forse hai ragione. Più la seconda? Vabbè, comunque la serie si chiama Big Little Lies, con Reese Witherspoon e Nicole Kidman. Ed è bella, sicuramente interessante. La possiamo consigliare a tutte le mamme? E anche a tutte le smamme, direi. Soprattutto. E Franco Schivani, buongiorno. Ciao Ale, state ascoltando Frank. Little by Little degli Oasis. Perché è del 2002. Esatto. E noi ci andremo fra poco. Però attenzione, cosa? Perché Liam ha detto adesso... Liam uno dei fratelli, due fratelli. Gallagher, ha detto a Noel, suo fratello, adesso io faccio una cosa da solista e vi faccio finalmente vedere come si cantano veramente le canzoni degli Oasis. E l'ha lasciato. Sì, se n'è andato. E fratello, quindi, sarà stato felicissimo. Grazie, come la Bruni tedesca. Quindi tutto quello che abbiamo fatto dentro questi anni non conta nulla. No. Quindi adesso le canti tu, va bene, facci vedere come canti tu le cose degli Oasis. E adesso vedremo come le canterà, uscirà. Bene, sì. Presto. E intanto noi salutiamo la nostra Alessandra Cravetto. Ciao ragazzi. Ciao Ale. E noi andiamo nel 2002, subito dopo la pubblicità. Ciao. How many special people change? How many lives? lives are living strange. Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than